Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Staccano visti, drogati di lavoro, persone che lavorano solo per lo stipendio. A loro è dedicato il libro Ufficio di scollocamento, una proposta per ricominciare a vivere, scritto da Simone Perotti e Paolo Ermani, edizione Chiare Lettere. La proposta del libro nasce da culture ed esperienze vicine al pensiero della decrescita, a quello ambientalista, al neopauperismo, al downfishing e al recupero della manualità. Daniele Biacchessi ha intervistato Simone Perotti. Simone Perotti, che cos'è lo scollocamento? È una esigenza forzata dai tempi, in un certo senso. Il sistema ci sta scollocando, sta dicendo che la promessa che aveva fatto, cioè che avremmo tutti lavorato, avuto una pensione, una casa, basta che davamo in cambio tutto il nostro tempo per il lavoro, per l'impegno nella società, questa promessa non vale più. È una disdetta unilaterale dal contratto. Il problema è che andare avanti a tenere fede a un contratto in cui la controparte non c'è più e non dà più quello che prometteva è assurdo e perdente, ovviamente. Quindi prima che ci scollochi tutti bisogna che ci scollochiamo da soli. Tu hai iniziato questo lavoro soprattutto con una serie di libri molto fortunati che avevano lanciato il cosiddetto downshifting. Questo cos'è? Un seguito più politico degli altri libri? Esatto, sì, è un alzarsi da terra, diciamo, dal livello con cui guardavo le cose, sempre più in alto con avanti tutto, adesso su una chiave un pochino più politica, più rimaniamo dentro questo sistema, aderendo psicologicamente, esistenzialmente, filosoficamente a quella che è l'impostazione del sistema economico e sociale, e più rimaniamo invischiati in una trappola, è come se attendessimo che il comandante desse l'ordine di abbandono nave, però il comandante non lo sta dando, la nave sta affondando e come i passeggeri della sfortunata nave Concordia che si sono messi in salvo perché hanno disubbidito, perché hanno abbandonato la nave senza l'ordine del comandante, anche noi dobbiamo organizzarci. Naturalmente non si tratta solo di lasciare il lavoro banalmente o smettere di fare il nostro dovere dal punto di vista professionale e lavorativo, ma è uno scollocamento da questo sistema dei consumi, dai luoghi dove ci dicono di vivere, dal modo in cui ci dicono di vivere. Dobbiamo trovare un sistema alternativo. Di solito ci sono gli intellettuali a indicarci la via, in questo caso no, e dobbiamo fare da soli. Quindi è una via di uscita anche questa? Beh certo, il sistema sta crollando e quindi se vogliamo crollare con lui andiamo avanti, se no ce ne dobbiamo costruire un altro a partire dalla cellula minima di organizzazione della società, cioè l'individuo, il quale dovrebbe, tutti noi dovremmo manifestare meno, urlare meno, lamentarci meno, iniziare da subito a vivere in maniera diversa, recuperando il tempo, smettendo di sprecarlo in lavori spesso assurdi, inutili, che tra l'altro non ci daranno la pensione, che spesso e volentieri ci scollocano senza neanche avvisarci, e invece collocare la nostra vita e il nostro tempo in un ambito più ragionevole, autoproducendo il più possibile parte del cibo, parte dell'energia, muovendoci meno con macchine che hanno sempre più costi da sostenere, impiegando le nostre migliori risorse, che sono tantissime, molte più di quelle che pensiamo, in qualcosa di diverso, una società diversa che però parte dall'individuo. E partendo dall'individuo, Simone Perotti ha dato un esempio? Ma io credo che in quest'epoca non ci sia niente di più convincente della testimonianza. Io, devo essere chiaro, le scelte che ho fatto le ho fatte per me, per cercare di fare qualcosa di buono della mia vita, e all'inizio, devo essere sincero, non avevo nessuna idea che questo potesse avere una portata più ampia. Poi mi sono reso conto che scriverne e testimoniare delle mie piccole scelte individuali è stato di ispirazione per molti, questo ha scatenato un lungo ragionamento, un lungo dibattito, solo aver prodotto delle domande, se non forse addirittura qualche risposta, mi sembra già una cosa molto importante. Nello specifico che vita fai? Ho smesso di lavorare in azienda, ho smesso di andare a lavorare tutti i giorni perché mi sono reso conto che si poteva vivere con molto poco, impattando poco sull'ambiente circostante, consumando poco, quindi avendo bisogno di pochi soldi. Vivo in una casa che è costata molto poco perché il paese è pieno di case dove nessuno va perché non c'è lavoro e che quindi costano pochissimo, ho un piccolo orto, lavo barche, le conduco perché è quello che so fare per guadagnare dei soldi, soprattutto ho tutto il tempo che voglio per dedicarlo a mia mamma che sta diventando anziana, per esempio, che è una cosa molto importante per me e credo lo sia in generale per una società, poter fare questo piuttosto che non occuparlo con i miei amici, piuttosto che non soprattutto scrivendo tempo, cosa che prima facevo solo nei ritagli. Passare una vita a fare la cosa più importante nei ritagli di tempo mi sembra una follia, anche perché poi fra 35 anni muoio e dopo non ci sarà più tempo. E tutto quello che tu scrivi nei tuoi libri, anche i tuoi modelli, come riescono a conciliarsi con questi periodi di durissima crisi economica? Ma c'è una crisi economica non assoluta, direi, perché quella assoluta se fossimo come il Bangladesh, ma dato che non siamo come il Bangladesh, direi che è una crisi relativa, cioè una crisi relativa a un periodo, a un'epoca, a un sistema in cui c'era uno sfarzo, uno spreco e una mancanza di sobrietà a dir poco imbarazzanti. Anche un bambino avrebbe potuto ipotizzare che saremmo dovuti arrivare al punto dello stop, addirittura della retrocessione di 2, 3, 4, 5 passi indietro. Noi siamo semplicemente forse in quest'epoca tornando a vivere in maniera più sobria, sprecando meno denaro, muovendoci solo se necessario in macchina, non comprando beni voluttuari. Se il 4% in meno di consumi produce la chiusura di una serie di aziende, direi che quelle aziende forse non dovevano neppure nascere, perché sono così fungibili i prodotti che producevano, che dopo neanche un paio d'anni di crisi stanno già chiudendo. Quindi direi che questa, più che una crisi peraltro relativa, è un'epoca di progresso, forse torniamo in una circostanza un pochino più sobria. Il futuro è un futuro, quello che vedi, è un futuro di fatto di persone che abbandonano le vecchie strade per aprirne delle altre, oppure persone che chinano il capo e che quindi in qualche modo non alzano la voce? Beh, come sempre capita nei periodi di cambiamento, una quota di persone annusa l'aria, cerca di darsi da fare, una quota di persone continua ad andare dritta verso il burrone. Questo è sempre stato così. Certo, oggi fidarsi dei nostri leader, che sono tutti sul molo in alto uniforme, ci dicono di entrare tutti, di salire tutti a bordo di questa nave, perché a loro interessa solo che saliamo a bordo, che siamo occupati, che siamo un numero in una tabella statistica occupazionale. Ma che tipo di vita facciamo? Cioè, se la nave stia affondando o meno non li riguarda minimamente. Ecco, continuare a dare seguito e a dare retta a questi bizzarri leader, devo dire, fa sì che le persone si assumano un'enorme responsabilità. Ormai credo che tutti quanti sappiamo tutto, tutti quanti soprattutto sanno che devono trovare una nuova strada. Poi naturalmente, come sempre capita, qualcuno lo farà, qualcuno no. L'ufficio di scollocamento nasce proprio con l'intento di offrire a tutti la possibilità di riprendere in mano la loro vita. Non è solo un libro, stanno nascendo in Italia questi uffici di scollocamento. Noi invitiamo tutti ad aprirne uno nella loro città per rimettere in sesto una cultura della sopravvivenza migliore, che in questo momento è così compromessa. Ma Simone Perotti non sta facendo soltanto lo skipper e il romanziere, sta o comunque lo scrittore, proprio dal punto di vista dei libri, sta anche rimettendo in moto una vecchia storia d'Italia. Mi sembra che stai facendo uscire un nuovo libro che uscirà alla fine del mese. Di che cosa parla? È un romanzo, e come sempre negli ultimi tempi nei miei romanzi ci sono fortissime tematiche riguardanti l'ambiente, la possibilità delle persone di migliorare la propria condizione. È un grande romanzo sulla libertà, che fa da sequel a Uomini senza vento, che era uscito un anno fa. Quindi ha lo stesso protagonista che, avendo cambiato vita, si trova immerso in circostanze, avventure, situazioni talmente diverse da quelle che viveva quando viveva in città e lavorava ogni giorno, che sembra davvero un'altra vita. E quest'altra vita è ricca di avventure, soprattutto ricca di una conoscenza del nostro territorio, dei problemi che ci sono, per esempio in questo caso alla Spezia e nell'Alto Tirreno. Ci sono tante barche, c'è molto mare, insomma ci sono tutti gli ingredienti dei miei romanzi, soprattutto la libertà. E anche per oggi è tutto. Italia in Controluce torna domani alle 6:30.